America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Siamo di nuovo in una delle puntate pre-natalizie. Vi ho detto che avrei fatto una serie di puntate in cui andavamo a ripescare alcuni degli eventi più emozionanti, più toccanti dell'anno. Beh, devo dire, ripensandoci, uno che mi ha colpito moltissimo è stato quello della maratona a New York di ragazzi ex tossicodipendenti che si sono messi insieme, sono partiti con un programma di allenamento curato da Gabriele Rosa, che è uno dei più grossi allenatori dei maratoneti. Pensate, la vincitrice della maratona di New York di un paio di mesi fa era una sua allenata, e sono partiti in questa grande avventura. Avevo parlato con loro il giorno dopo la maratona e mi avevano dato anche il loro grido di battaglia. Risentiamolo. Allora, avrete un grido di battaglia, sì o no? Sì. Allora, e qual è? Merda! Merda! Merda! Oh my God, come si dice qui. Beh, devo dire, anche la signora Moratti faceva parte del coro. Bene, li ho riuniti per così vedere un paio di mesi dopo come sono. Raffaella, allora, ma intanto come nasce questo grido di battaglia? Diciamo che è un incitamento e da forza, da coraggio e fa anche ridere, quindi... Senti, e raccontaci di come tu hai ritrovato il tuo coraggio e il sorriso in fondo, perché tu hai passato dei momenti difficili. Come sei entrata in questo tunnel della droga a un certo punto? Io sono un medico e a un certo punto qualcosa non è andato per il verso giusto. Mi sono ritrovata a fare delle scelte sbagliate e quando ho toccato il fondo ho chiamato San Patrignano e sono entrata circa 7 anni fa, adesso ho finito da qualche anno. E oltre ad aver recuperato la mia vita, i valori che avevo perso, ho avuto un'enorme opportunità che è quella di ritornare a fare il medico, e non solo il medico ma all'interno della comunità di San Patrignano, perché abbiamo un centro medico guidato dal dottor Boschini che mi ha dato questa enorme opportunità. E un ricordo della maratona dopo un paio di mesi? La maratona è un enorme ricordo, perché poi è il sacrificio, è un po' il simbolo del sacrificio che facciamo a San Patrignano, il recupero, il giocare ogni giorno con il proprio stato d'animo, con la propria testa, il non mollare mai, il cercare di credere sempre in quello che si sta facendo. E quindi la maratona me la porto nel cuore. Andrea, tu com'è che sei caduto nella droga? Lo diciamo, raccontiamolo, perché molti genitori, molti ci staranno ascoltando, quindi vogliamo così dare anche dei messaggi importanti. Come è capitato? Diciamo, tra scelte sbagliate, tra amicizie sbagliate, non avendo il coraggio di affrontare i propri problemi, cioè scappando per non affrontarli, però tanto alla fine prima o poi ce l'hai sempre davanti. Ma quindi è stata una spirale nella quale sei precipitato. Quanti anni avevi quando hai cominciato a drogarti? 13 anni. A 13 anni addirittura? Sì, prima canna. Poi sono passato con anfetamine, trip, poi cocaina, alcol, tutto. E poi hai chiamato tu San Patrignano, ti hanno mandato i tuoi, come sei arrivato? È stata più, diciamo, una scelta, dai, insieme. All'inizio non ci volevo andare, poi dopo è stata una scelta quando un mio amico che aveva 19-20 anni, lo conoscevo da 19 anni, è morto per un incidente stradale, in cocaina, e allora lì ho detto basta, non devo cambiare. E la maratona per te che cos'è stato? La maratona è un viaggio, purché altro, la maratona per me è uno stimolo da portare avanti, cioè quello che ci insegnano a San Patrignano è di affrontare i propri problemi, andare avanti e cercare di superare sempre i nostri limiti, ma in buono. E tu un limite come la maratona pensavi che l'avresti mai superato, ti era mai venuto in mente? No. Sinceramente no, se ero fuori al 10° chilometro avevo chiamato un taxi e ero andato a casa. Boris, Allora, te come sei precipitato nel tunnel della droga? Ormai non mi ricordo più, che sono passati molti anni. Comunque sono caduto anch'io in giovane età, quasi. Quanti anni avevi? 16 anni, con le droghe pesanti, quasi per gioco, perché poi sembrava quasi fosse una moda e poi me la sono portata avanti fino a 39 anni, fino a che mi sono trovato praticamente con non avevo più voglia di vivere, quindi non avevo più un futuro. Mi svegliavo al mattino già incazzato per affrontare una giornata, quindi è stata una scelta fondamentale, o quello, la vita. E poi sei andato, ti sei riabilitato, hai fatto anche la maratona, e cosa fai adesso? Adesso ho ripreso a fare il mio lavoro, quindi dopo aver fatto un percorso di reinserimento in una città di Milano vendendo i prodotti per San Patrignano, mi hanno dato una mano, e lì nella città di Milano poi adesso ho trovato lavoro, insomma, quindi in un anno, la mia età, sono stato abbastanza fortunato. La tua età quanti anni hai adesso? 44. Beh, sembra un ragazzino, devo dire. Grazie. E un ricordo della maratona? Beh, il ricordo della maratona è ancora vivo, l'emozione, il pubblico, è una cosa che mi resterà sempre dentro, no? Come se fosse ieri, quindi una cosa vivida proprio. Beh, avevamo intervistato anche Antonio Boschini, che così ha seguito questi ragazzi, che è il medico della comunità di San Patrignano, ma che anche lui è stato un tossicodipendente, quindi ormai sono passati molti anni, però come è capitato a te di diventare tossicodipendente? Ma io vivevo in una famiglia in cui c'erano stati problemi analoghi e probabilmente mi sono trovato in una situazione in cui, non avendo ancora una personalità, non avendo ancora delle sicurezze, essendo anzi piuttosto insicuro, praticamente ho trovato, come tutti, credo, una scorciatoia per non affrontare le difficoltà che a quell'età tutti incontrano. E poi sei andato a San Patrignano, lì sei rimasto, sei medico. Sì, sono andato a San Patrignano credo appena pochissimo tempo dopo che sia stata fondata, e quindi ho avuto la fortuna di poter conoscere tutto di quel posto lì e di sentirlo, vabbè, a parte i primi anni che ero in grossa difficoltà e spesso decidevo di andare via, eccetera, eccetera, però una volta che ho deciso di fare le cose in maniera seria, in maniera continuativa, ho capito che quella poteva essere una casa più che una comunità, e le persone che ci stavano li ho sempre vissuti come dei fratelli. Insomma. E un ricordo della maratona? La maratona è un ricordo bello. La maratona non solo tua, ma del fatto di aver messo insieme questi ragazzi. Ecco, infatti io questa maratona qua, in particolare nei giorni che l'hanno preceduta, è stata per me una entusiasmante, ma anche un po', l'ho vissuta anche un po' come con la responsabilità di avere con me un gruppo di ragazzi che si trovano da San Patrignano nel giro di 12 ore a New York. E quindi voglio dire, per me, insomma, poi con tanti impegni, poi, perché al di là degli allenamenti, in questi giorni abbiamo avuto tanti impegni di rappresentanza, anche di giustamente per presentare questo progetto al mondo intero. E quindi sono stati giorni abbastanza impegnativi, più impegnativi sicuramente i giorni prima della maratona che la maratona stessa, perché la maratona per me è stata una gioia. Non vorrei che si pensasse che San Patrignano può permettersi di mandare 11 ragazzi a New York a correre una maratona, che è una grossa spesa. E quindi questa cosa è stata possibile grazie a degli sponsor, e sento il dovere di citarli: sono il gruppo di Salvatore Ferragamo, la banca Cassa di Risparmio di Rimini, Robe di K, Cimberio e Grana Padano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, scrivetemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo rievocato quella grande giornata, la maratona di New York, e dunque Frank Sinatra, ma non per New York, New York, ma nello spirito natalizio di cui vi parlo ormai da qualche giorno in Jingle Bell. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Da New York è tutto, buon Natale, domani non andremo in onda, ci risentiremo il 27, non andremo in onda neanche il 26, vi auguro davvero di cuore uno splendido Natale. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a venerdì. Goodbye and get going.